basta una fotografia a dar vita, speranze adesso immobili. Una canzone, un testo, un momento, ricordi indissolubili. Ma lo so, non si può, utopie ideali, però ci proverò, ci crederò. Torna da me. Ogni sera chiudo gli occhi e vedo te, yeah. Come fosse un sogno, forse sai che c'è. Ti voglio bene se tornerai da me. Suoi silenzi, immagini indelebili, telefonate anonime più grave, il senso di banalità. Ma lo so, non si può, utopie speciali, però ci proverò, ti chiamerò, torna da me. Ogni sera chiudo gli occhi e vedo te, yeah. Come fosse un sogno, forse sai che c'è. Ti voglio bene se tornerai da me.